fortuna viene a me. Oui, oui, qua, la fortuna viene qua. Ah, oui, oui, la fortuna non va lì. Adesso vi voglio vedere poi a pronunciare correttamente il nome e il titolo di questa esposizione dopo questo meraviglioso scioglilingua che il maestro Paolo Villaggio riporta al Casino di Monte Carlo quando accompagna il duca conte Semenzara, impossessato dal demone del gioco, in un momento scaramantico con questo scioglilingua che certamente ci porterà in confusione per dare correttamente il nome e il titolo della mostra protagonista, che è Ai Weiwei Wu I Am. Ce l'ho fatta al pelo. È un ottimo indizio, un grande quiz questo. Il quiz del mercoledì trasposto al giovedì. Beh, abbiamo portato già grandi opere con questo capolavoro cinematografico, il secondo tragico Fantozzi, però ovviamente ora ci occupiamo di grandi esposizioni. Siamo a Palazzo Fava, perdonate questo inizio un po' così particolare, però arriva per la prima volta a Bologna la prima personale di Ai Weiwei. Tra l'altro è stato un percorso di presentazione abbastanza intenso, Anna. È stato intenso, sì, cioè possiamo dire il circolo mediatico per un grande artista, giustamente. Certo. Però è un bel frullatore. Sì, esattamente, hai usato la parola giusta, frullatore. È anche data di presentazione nel giorno di venerdì, che di solito non è esattamente. Queste due mostre sono state presentate al venerdì e la successiva al sabato. Ecco, quindi questo già ha portato un po' di scompiglio, ma non solo. La grande presenza è veramente un pubblico molto molto intenso, una folla di operatori appassionati, giornalisti, anche artisti, alcuni non con buone intenzioni, e di questo ne parleremo, perché già lo saprete quello che è capitato, è stato su tutte le prime pagine, insomma, questo gesto insano che ha avuto delle conseguenze importanti. Hai rischiato anche tu un po', guarda. Io sì. Potevi passare alla storia, Anna. Esattamente, esattamente. Io quest'opera di cui parleremo era nell'atrio, nel primo piano dove si svolgeva la conferenza stampa, e essendoci appunto tanta gente, tutti rischiavamo con gli zaini e quant'altro di toccarla. Io stessa ci ho pensato, me lo sono tolto, e vedi che poi e invece potevi avrei potuto dalla storia con delle conseguenze notevoli, e Radio Città Fujiko non avrebbe risarcito, te lo dico. L'importante è essere famosi. L'importante è arrivare alla ribalta delle grandi mostre. Ai Weiwei Wu I Am, poi ne parleremo anche a proposito di questo quesito, che a sua volta è un po' una linea tra le tante nella produzione di questo artista, in prima fila per l'impegno dei diritti umani, a difesa dei diritti umani, e anche per quanto riguarda un'espressione artistica nel contemporaneo, poliforme, poliedrica, sia dal punto di vista materico che da quello concettuale. Beh, a proposito di grandi presenze anche nella curatela. È molto molto preparato, è molto carismatico, è un divulgatore d'arte importante, è Arturo Galanzino, che giustamente si è presentato come una grande rock star. C'era, sì, una grande, sì, attesa per... C'era una grande Galanzino. Attesa, sì, diciamo... È quello che la sua fama lo precede, ma giustamente è stato molto efficace per nella presentazione. Meritata. Sì, sì, sì. È meritata. Meritata, poi, esatto. Giustamente, per un palcoscenico così, anche la parte carismatica, indubbiamente. Aggiungo poi che aveva già curato un'esposizione di Ai Weiwei nel 2016, quindi ha un rapporto con questo artista comunque già diretto, di storico, diretto. Diretto, sì, di conoscenza, sì, sì, diretta. Ovviamente, esatto, la presenza di Rai, di Sky Art e di Radio Città Fujiko. C'eravamo. No, io mi sono accollato a gomitate in mezzo a questi grandi nomi di testate, anche la rubrica in mostra per il Breakfast Club, assolutamente affiancata per portare alle ascoltatrici e agli ascoltatori contenuti di questa particolare esposizione. Allora, passiamo direttamente a motivazioni personali. A te piace Ai Weiwei? Allora, è molto difficile perché è molto concettuale. Vedremo che ogni tema che lui tratta nelle varie stanze ha un'elaborazione precedente, per cui non è immediato, però è bello il messaggio, mi piace la sua provocatorietà. Però non è immediato, secondo me va studiato lui stesso come personaggio, come certo. Con la sua storia, ecco, se no non si capisce. L'estetica è importante, comunque le installazioni sono d'impatto, anche il suo uso dei Lego di cui adesso sì. parleremo, ma a me è piaciuto. Sì, a me è piaciuto. Quando abbiamo avuto motivo di confronto a proposito di questo artista, ne hai dato un endorsement carico di entusiasmo. Aggiungo anche lo studio e la comparazione con la classicità, che esatto. è una cosa che tra l'altro ha dialogo anche con la sede espositiva. Allora, io direi che abbiamo già dato un'esaustiva presentazione emozionale. Adesso ascoltiamo le parole di Arturo Galanzino, curatore della mostra Ai Weiwei, Who Am I? La mostra a Bologna, che sarà a Palazzo Fava fino al 4 maggio 2025. Sì, è l'artista impegnato, l'artista attivista per eccellenza. Ai Weiwei ha fatto dell'impegno politico la sua poetica, e questa mostra, diciamo, che porta questo messaggio in modo molto forte attraverso una selezione di opere che squadernano una varietà di linguaggio quasi infinita, proprio a livello anche tecnico e tecnologico. Si passa dalle porcellane agli intarsi in legno, al Lego, ai video, a un dialogo con l'intelligenza artificiale. Insomma, veramente chi più ne ha più ne metta. È un artista veramente poliedrico, in grado di parlare del nostro tempo, e credo che questo sia la cosa più importante che Ai Weiwei porta. È una mostra che dialoga anche con la città di Bologna, con Palazzo Fava, con i suoi affreschi della scuola dei Carracci, che parlano di guerre, migrazioni, viaggi per mare. Sono anche questi temi che alcune opere dell'artista trattano, quindi direi che è una mostra che è in bilico tra Occidente e Oriente, tra passato e presente. Musica tradizionale cinese, però ho portato le note di questo chitarrista vietnamita, quindi faremo Cina e dintorni per dare una colonna sonora a questa esposizione e intervallare le parole di Arturo Galanzino, curatore dell'esposizione Ai Weiwei, Who Am I? Ai Weiwei, la fortuna viene a me. Allora, onestà intellettuale prima di tutto, questo. Non sono un tifoso di Ai Weiwei, questo lo dico esplicitamente. Ciò non toglie che ne riconosco l'ispirazione, e aggiungo che Arturo Galanzino ha fatto un grandissimo lavoro. La mostra è molto bella, anche per chi non è esattamente un ammiratore. Ho trovato l'esposizione che porta un valore aggiunto, ne parlavo in precedenza, per la nostra città di Bologna, a Palazzo Fava, l'organizzazione di Genius Bonone e tutto quello che gravita intorno a questo importante appuntamento. La mostra è molto bella, anche per chi non è esattamente un fan dell'artista protagonista. Meraviglioso, è un disco che vede co-protagonisti Renaud Garcia Fons, che state ascoltando al contrabbasso attraverso quest'archetto magico, Chris Potter al sassofono, Paolo Fresu alla tromba, John Balke alla batteria, uno star game di artisti per la ACT Record, Dan Guyan Le Trio più gli ospiti che ho appena citato. Ovviamente la parte che ha colpito di più è il dialogo con i classici, a me il mito di Medea e Giasone che viene ripreso all'interno di Palazzo Fava, altri lavori che diventano capolavori stessi, le avventure di Enea, le realtà del mito che diventano dialogo diretto con alcune opere che, pensate, con aspetto materico molto particolare, Ai Weiwei riporta con dialogo frequente all'interno della sede espositiva. Ma non solo, perché le sezioni sono diverse, le opere in mostra sono forbite e dichiarano apertamente la sua ispirazione e la sua identità. È la classica mostra da non perdere, aggiungo. Oltretutto, per quanto riguarda l'opera che è stata danneggiata, già di per sé ha un contenuto importante, perché mi pare che sia tra quelle che andava a scavare con la ceramica tradizionale cinese un passato importante che, diciamo, non basta il tempo, non bastano i percorsi storici, non bastano tutti gli eventi e gli appuntamenti con il presente per poterlo cancellare, e lui l'ha riportato in memoria. Sì, esatto, era una, fa parte di quelle opere che, con cui lui ha utilizzato, che ha fatto utilizzando materie dell'antica Cina, porcellana. Poi ce ne sono alcune installazioni con le asce neolitiche, ci sono i vasi della dinastia Han, quindi c'è una scelta di una parte delle opere di utilizzare materiali dell'antica Cina e quindi della sua tradizione. E questo già di per sé, comunque, l'opera non è rappresentata in maniera intiera, non è un buon motivo per danneggiarla, no, assolutamente. Anzi, condanno fortemente chiunque danneggi le opere d'arte, questo per me rimane un assioma da rispettare, però l'opera in sé aveva questo intento, come ve ne sono diverse con altra motivazione di protesta, il gestaccio davanti alle sedi governative, c'è un corridoio, una sala corridoio che riprende la Casa Bianca, riprende il Cremlino, riprende il Vaticano, riprende altre sedi governative, ma il vero protagonista è il gestaccio che porta tutto ciò come evidente protesta in fotografia Ai Weiwei. Quindi una mostra eterogenea, ovviamente. Eterogenea, sì, c'è questo passaggio passato-presente continuo, e sempre con questa idea di provocare, comunque, di far riflettere, come dice anche il nome stesso della mostra. Certo, e di questo poi daremo approfondimento sezione speciale, perché questa domanda mi ha dato qualche adito di riflessione in più. Nella seconda parte di conversazione con Arturo Galanzino di cosa parleremo, Anna? Parleremo di un po' meglio delle installazioni e anche del suo rapporto con il maestro. Perché ho avuto la fortuna di lavorare già in passato con Ai Weiwei in un momento importante, all'epoca era il suo esilio dalla Cina, vivendo istituito il passaporto, decide di lasciare il suo paese natale, trasferirsi in Europa, quindi un momento di passaggio della sua carriera, un momento in cui all'epoca l'artista cominciava anche a guardare fuori dai confini cinesi e asiatici per trovare nuove fonti di ispirazione, in particolare all'epoca cominciava a interessarsi al fenomeno, al tragico fenomeno delle migrazioni, che è diventato poi un po' uno dei suoi cavalli di battaglia. Troviamo questo tema trattato qui a Palazzo Fava anche con nuove opere, dialogo con quelli che sono dei capolavori della cultura bolognese, gli affreschi dei Carracci e della loro scuola, che parlano nelle storie di Enea, di Giasone, anche loro, di guerre, di escursioni, di esili, di viaggi per mare, di persone che cercano una patria. Quindi noi abbiamo voluto anche qui portare questo tema proprio per creare questo dialogo tematico, storico. La mostra parla di molto altro, come potete vedere alle mie spalle ci sono grandi installazioni, ci sono molte opere realizzate con Lego, anche questo è un dialogo tra passato e presente, una sorta di sfida alla storia dell'arte italiana, inclusa quella bolognese, con tre nuove opere appunto della giusta tradizione Felsinia, rifatte da Ai Weiwei con i Lego. Poi questo discorso sui materiali appunto molto importanti, in particolare i materiali tradizionali cinesi, questo porcellane, questi intarsi che lui ancora oggi riesce a produrre utilizzando appunto le maestranze, portano una sapienza millenaria, sono veramente oggetti raffinatissimi declinati su temi di oggi, quindi è una mostra appunto molto ricca, molto varia tra passato e presente, tra occidente e oriente, questo è un po' il senso di questa iniziativa. Torniamo all'impatto che una mostra del genere può avere per la città di Bologna e ovviamente per l'Italia. Sì, spero che questa mostra possa dare a questo luogo così speciale, così straordinario, una nuova vita, anche verso una direzione appunto più moderna e contemporanea, verso temi che toccano noi quotidianamente, temi importanti come quelli toccati a artisti, appunto sociali, politici, geopolitici e storici. E sì, che Palazzo Fava possa diventare il centro di questo dibattito intorno alla cultura del presente e del contemporaneo, però che una città della tradizione così importante, culturale come Bologna, con tutti gli studenti che la animano, meriti un luogo come questo. Ci racconta un'ultima domanda un po' di backstage, com'è andata lavorare, lei ha coordinato un grande gruppo, un laboratorio, la casa editrice Sile per Galleria Continua, lo stesso maestro sappiamo che è stato particolarmente attivo e attento nel coadiuvarla, nel preparare la mostra anche in tutti i suoi dettagli, com'è andata? Le mostre sono sempre degli sforzi di gruppo dove è difficile trovare poi figure che spiccano, perché è davvero un lavoro di squadra, quindi ognuno ha il suo ruolo chiaramente, ma sì, è stato mettere insieme tante competenze diverse anche in una, diciamo così, con una tempistica abbastanza ravvicinata, tutti mossi dall'entusiasmo per un buon progetto e dall'amore per l'artista e per il suo lavoro, quindi sono questi i buoni sentimenti credo che creano poi quell'entusiasmo, quell'energia per superare i problemi, creare le cose, credo bene, relativamente in fretta. Ecco, hai appena avuto un esempio, siccome nei tempi che la redazione permette ti insegno di fare regia, così non si fa regia, cioè non si lancia l'intervista intanto che il presentatore sta apportando le parole di introduzione. Questo grave errore, di cui mi scuso soprattutto con te, ma figurati, con gli ascoltatori della rubrica In Mostra, sì, stava aggiungendo Anna che in questa parte vi è il rapporto diretto tra Arturo Galanzino e l'artista stesso, quindi diventato un po' co-curatore delle sue opere. Ai Weiwei si fida di Galanzino dopo appunto l'esperienza del 2016 a Firenze, giustamente anche quest'anno a Bologna si ripete questa squadra. Thank you. opera il ready-made Han Dynasty, la dinastia Han Urn with Coca-Cola, che evocando al contempo Andy Warhol e Marcel Duchamp, la maggior parte delle mie attività, spiego lo stesso Ai Weiwei, riguarda l'aggiornamento o la ridefinizione, appunto come vi stavo leggendo, di questi contenuti e di quello che è l'aggiornamento esattamente. Pensate il dialogo tra passato e presente, che è uno dei motivi molto urgenti di ispirazione e di comunicazione per l'artista cinese. Curatore Ai Weiwei ci incoraggia a guardare il mondo tenendo gli occhi aperti e non accettare passivamente la realtà che viviamo, trasformando l'esperienza artistica in un potente strumento di cambiamento e consapevolezza. E arriviamo al titolo allora a questo punto. Who am I? Chi sono io? Chi sono? Bella domanda. Bella domanda. Dovremmo porla a noi stessi, secondo me. Per me qui vi è il motivo di riflessione molto importante. Tanti motivi di riflessione, quindi vuol dire missione compiuta innanzitutto. Poi giustamente ognuno ha le estetiche che più appartengono, perché è la parte soggettiva. Ma oggettivamente chi sono io? Ecco, è una domanda che io non porrei mai all'intelligenza artificiale, la pongo a me stesso nella ricerca continua del chi sono io. Non voglio apparire un filosofo, ma concedo la licenza artistica a un grande artista, che questa domanda mi pare durante la detenzione. Bene, questa idea, ci puoi dire qualcosa di più? Sì, per l'esattezza c'è un'unica installazione che ha a che fare con l'intelligenza artificiale e consiste appunto nel fatto che il maestro Ai Weiwei ha posto 80 domande all'intelligenza artificiale, l'ultima delle quali era questa: chi sono? E 80 perché 80 giorni furono i giorni di detenzione che il regime cinese gli ha imposto. E chiedere all'intelligenza artificiale chi sono io, è bella la risposta che poi è arrivata, perché ci invita a sua volta a non fidarci dell'intelligenza artificiale, perché non è colpa dell'intelligenza artificiale o della digitalizzazione, ma ovviamente da come è stata impostata sia dal punto economico e finanziario, culturale, e anche da quello che ne è una costruzione a proposito di ricerca della verità. Mi pare che l'intelligenza artificiale abbia detto non lo so. Esatto, che a questo punto mi verrebbe anche da dire che era un pretesto di Ai Weiwei, per, sapendo che non avrebbe avuto una risposta giusta, per poi, come dire, costruirci sopra questa polemica o comunque questa messa in discussione del fatto che l'intelligenza artificiale comunque non può darci tutte le risposte a domande troppo grandi. In questo caso, certo, non condivido chiedere direttamente all'intelligenza artificiale, ma io chi sono? Chiedetelo a voi stessi, è molto più importante. E se Ai Weiwei in questo modo ne porta una denuncia, beh, certamente ulteriormente una riuscita di questo lavoro, anche dal titolo. Di questi contenuti ne abbiamo parlato nell'ultima parte di conversazione. Esatto, sì. La domanda che dà il titolo a questa mostra è presa da una conversazione che l'artista ha realizzato con l'intelligenza artificiale qualche mese fa, quindi sfidando, diciamo così, questa nuova tecnologia che sta cambiando le nostre vite. Evidentemente, non solo per l'intelligenza artificiale, questa domanda non ha risposta, è una domanda esistenziale, complessa, che è insita alla nostra esistenza, al genere umano, insomma. Ma è una domanda essenziale per questa mostra, perché di fatto questa mostra vuole presentare diciamo così l'universo creativo infinito e variegato di questo grande artista attivista, perché molte cose Ai Weiwei non è soltanto un artista, lo sappiamo, è stato un regista, un blogger, un designer, un architetto e molte altre cose, e soprattutto è una persona, un intellettuale che non si stanca mai di porsi delle domande appunto sul presente e sul mondo in cui viviamo. Ci sono 81 domande, come 81 sono stati i giorni di prigionia quando Wei venne ingiustamente arrestato senza preavviso dal governo cinese, interrogato, e sono queste 81 domande che scandiscono questa installazione video, appunto. La mostra si sviluppa in modo tematico, dispiegando tutta questa varietà tecnica e tecnologica dell'artista. Gran parte del percorso è dedicato alle opere di Lego, che riprendono, modificandola in modo ironico e dissacratore, la tradizione pittorica occidentale, inclusa quella bolognese, con delle nuove opere. La mostra è composta da grandi installazioni, sia di porcellane che di altri materiali. È una mostra che ci mostra anche l'attività collezionistica dell'artista, che negli anni ha messo insieme un gran numero di reperti storici cinesi. Abbiamo un'installazione fatta ad esempio da asce neolitiche, insomma, quindi una mostra veramente molto molto varia, che si può leggere in vari modi, non c'è un unico percorso consigliato, e che occupa appunto tutto Palazzo Fava, a partire dalle scale con questi grandi aquiloni dedicati alla mitologia cinese, fino al secondo piano, dove appunto abbiamo tutte queste sezioni video e alcune opere dedicate ai temi delle migrazioni. Rubato il cielo? Lo chiede Naim Khoshaimchlak, cantante di origine mongola, con questa modalità di espressione vocale, il canto della tuva. Quindi siamo rimasti nei dintorni, anche perché l'opera, tra l'altro, in esposizione, le opere in esposizione, come facilmente intuibile, hanno grande dialogo con tutto il resto del mondo. Ai Weiwei, Wu Am I, a Palazzo Fava, sarà in mostra fino al 4 maggio 2025. Un'esposizione da non perdere. E la prima è andata, Anna. La prima è andata. Adesso ce n'è ancora una. Sì, esattamente. Andiamo a Palazzo Albergati, a tra poco, dopo la pubblicità sui 103.1. Anna Cesari, William Piana, in mostra, a tra poco.